26 giugno è la giornata internazionale dedicata alle vittime della tortura, promossa da Amnesty International. Quest'anno l'appuntamento assume una rilevanza maggiore dopo le rivelazioni e le immagini delle torture praticate nel carcere iracheno di Abu Ghraib dai militari statunitensi. L'opinione pubblica mondiale si è sollevata contro le violazioni dei diritti umani nei confronti dei prigionieri iracheni. È tornata sotto i riflettori una realtà dimenticata che coinvolge ben 132 paesi in tutto il mondo. Ma cos'è la tortura? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Nuri di Amnesty International. La definizione di tortura ufficiale, quella contenuta nella Convenzione dell'ONU contro la tortura del 1984, che definisce la tortura come l'inflizione di sofferenza grave dal punto di vista fisico o psicologico commessa da un pubblico ufficiale nei confronti di una persona che si trova, diciamo, nelle sue mani. È una definizione moderna che tiene conto del fatto che la tortura oggi non è più soltanto l'inflizione di supplizi e brutalità di tipo medievale, ma è anche l'uso di tecniche estremamente moderne e sofisticate di deprivazione sensoriale, di bende, di isolamento, metodi che non lasciano tracce spesso sul fisico delle vittime, ma ne lasciano di permanenti nella psiche. Per questo è ancora molto importante, oltre al lavoro di Amnesty, il lavoro di organizzazioni come Medici contro la tortura, che della riabilitazione psicofisica delle vittime della tortura hanno fatto la propria missione. Secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International, i paesi nei quali sono stati registrati casi di tortura nel corso del 2003 sono 132. Casi isolati, casi più sistematici. Quello che preoccupa molto Amnesty è l'esistenza di un vero e proprio sistema di tortura che parte da Bagram in Afghanistan per proseguire con Guantanamo fino ad arrivare ad Abu Ghraib, un sistema molto istituzionalizzato con una sorta di regolamento della tortura che smentisce qualunque tipo di ipotesi sulle mele marce, sugli abusi isolati. La tortura oggi purtroppo, per chi la applica, è un metodo efficace non tanto per estorcere informazioni quanto per umiliare, per punire. Si dice che la pena di morte uccide le persone, è vero altrettanto che la tortura uccide la personalità delle proprie vittime. E in Italia esiste la tortura? La tortura in Italia esiste, lo testimoniano associazioni per i diritti umani, lo testimoniano le vittime del carcere di Bolzaneto, lo testimoniano organismi internazionali come il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Esiste la tortura, non esiste un reato che la punisca. Questo rende urgente ancora di più l'adozione di una legge finalmente che introduca il reato di tortura nel codice penale. Dunque i paesi civili non sono esenti da pratiche di tortura. In Iraq il mondo sviluppato ha fatto la parte del carnefice, ma all'interno di ogni suo singolo stato sono frequenti i crimini di tortura. Per quanto riguarda il nostro paese, vale la pena ricordare che 73 ufficiali e agenti di polizia e carabinieri, inclusi 4 operatori sanitari, sono indagati per maltrattamenti di persone fermate durante il G8 di Genova nel luglio 2001. Patrizio Gonnella, coordinatore nazionale dell'Associazione Antigone. Nessun paese è esente dal rischio di poter essere fonte di tortura. L'Italia è arrivata ad essere condannata per violazione dell'articolo 3 che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti dalla Corte Europea sui diritti umani, fra l'altro non tanti anni fa. Questo è successo in un paio di casi accaduti fra il 98 e il 2000. Episodi di violenza, pestaggi, ovviamente non qualificati come tortura perché il reato non c'è, ce ne sono e ce ne sono stati. In questo momento sono in corso ancora due grandi inchieste, l'inchiesta di Sassari per i pestaggi al carcere San Sebastiano e l'inchiesta di Genova per le violenze avvenute durante il G8. Quindi in entrambi i casi, se ci fosse stato nel nostro codice penale il reato di tortura, probabilmente un'imputazione in questo senso ci sarebbe stata, però non lo possiamo dire. Déjà 17 heures et j'ai pas avancé d'un pas. Le sang peur de rien savoir et le style on écrit pas. J'ai cassé deux cordes, l'ordi m'a planté trois fois. Une journée inutile et la nuit arrive pas. Alors situation pénible, réaction incorrigible, absolument prévisible et pourtant irrépressible. Et les buts sont en moins de distillés dans mon cerveau en fièvre et atteint le rôle qui décode. Ce soir, on t'inquiète. Ok, les machines éteintes et direct dans la salle. In Italia dunque la tortura esiste, ma non è un crimine. Nel nostro codice penale non c'è traccia del reato di tortura, una negligenza imperdonabile che dura da 20 anni. Patrizio Gonnella. Da 20 anni esiste un obbligo dei singoli stati di introdurre nei propri ordinamenti giuridici penali il reato di tortura, cioè esiste dal 1984, quando la convenzione è stata, diciamo, entrata in vigore, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e ogni trattamento crudele, inumano o degradante. Lì c'è anche una definizione esplicita di tortura, che è quella che le Nazioni Unite vorrebbero e avrebbero voluto che nei singoli stati fosse recepita. Per cui l'Italia da questo punto di vista è da 20 anni inadempiente, perché manca ancora nel nostro codice penale un reato specifico, nonostante le plurime sollecitazioni provenienti dagli organismi internazionali. Il 20 maggio, di fronte alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha condannato la pratica della tortura. Parole che non trovano conforto nei fatti. L'iter della legislazione sulla tortura viene falsato dalla Lega Nord, che è riuscita ad introdurre un emendamento alla Camera che permette minacce e torture se queste non sono reiterate. L'Italia viene catapultata nel Medioevo. Il commento di Patrizio Gonnella. Diciamo ovviamente di profonda amarezza, profondo dissenso e sorpresa che ci possa essere ancora qualcuno che nel nostro paese si spaventi all'idea che ci possa essere la codificazione del reato di tortura. È quasi, diciamo, quello che pensiamo è come se qualcuno, diciamo, temesse che tutto questo fosse definitivamente legalizzato. Noi ci proviamo da tempo, è dal 98 che abbiamo presentato un disegno di legge, anche allora bipartisan, per l'introduzione del crimine di tortura nel nostro ordinamento. A gennaio sembrava cosa fatta, la Camera ha anche prese di posizione importanti, significative, da Casini a Berlusconi. In realtà poi tutto è stato affossato nel gioco abbastanza, diciamo, di bassa lega, uso il gioco di parole, fatto a Montecitorio. Non è accettabile un reato di tortura così come loro lo avevano previsto, cioè la punibilità solo nelle ipotesi della reiterazione del fatto, cioè torturare una volta sarebbe lecito, torturare più volte diverrebbe reato. Prendiamo il caso di Abu Ghraib, secondo quella impostazione leghista, la singola opera di tortura realizzata occasionalmente da uno dei soldati non sarebbe punibile, posto che difficilmente ci si ripete due volte anche per paura di eventuali ripercussioni, di fatto è, diciamo, l'anticamera, quel tipo di impostazione, l'anticamera dell'impunità. Il 26 giugno si torna in piazza per ribadire un no alla tortura. L'invito di Amnesty International a un appuntamento che purtroppo non può essere una festa. Il 26 giugno è la giornata internazionale dedicata alle vittime della tortura. È una giornata in cui in tutto il mondo Amnesty e le organizzazioni contro la tortura organizzano iniziative. E per quanto riguarda l'Italia, l'appuntamento centrale sarà a Roma, in piazza Campo dei Fiori, dalle 18 alle 21. Con attori, attrici, cantanti, giornalisti che leggeranno e suoneranno e per dire no alla tortura. Non è una festa, dato che sabato 26 giugno saranno trascorsi 5.695 giorni da quando l'Italia avrebbe dovuto introdurre nel codice penale un reato che punisce l'azione di tortura. Non è una festa dunque, è un momento nel quale Amnesty chiederà a tutti coloro che hanno detto no alla tortura di dirlo ancora e di continuare in una campagna che dura ormai da 15 anni perché l'Italia adegui il proprio diritto interno agli obblighi internazionali che prevedono per l'appunto di avere un reato di tortura nel codice penale.